Grazie, mi ho organizzato questa cosa abbastanza grossa, finora le presentazioni erano rivolte a un gruppetto di amici, stavolta ho la possibilità un po' di discutere con una platea più ampia. Vabbè, 10 anni fa assieme a Cristo abbiamo pubblicato un altro libro che allora era stato anche abbastanza ben accolto da farlo discutere, che si chiamava Lavoro Autonomo di Seconda Generazione. E devo dire, la discussione che suscitò allora all'interno, una volta chiarito che cosa voleva dire questo termine sostanzialmente, la discussione che suscitò quel testo era interessante, soprattutto perché, come dire, anche il centro politico, anche a livello di governo e così via, ci si accorse, ci si era accorti che il mercato del lavoro stava cambiando e quindi che occorrevano introdurre una serie di nuove norme a tutela o almeno a riconoscimento di alcune di queste figure del nuovo mercato del lavoro. Dieci anni dopo pubblico questo libro qua e devo dire che la situazione è molto peggiorata. In 10 anni abbiamo fatto, almeno in particolare, la percezione che di questi temi ha il centro politico ha fatto un enorme passo indietro, direi che siamo quasi tornati all'anno zero, tant'è che se voi pensate un attimo come è stata condotta la trattativa sul welfare, si sono discussi dei mesi, diciamo si è discusso su portare l'età pensionabile a un certo livello per i lavori usuranti e non si è discusso del fatto che ci sono milioni di giovani che non avranno mai una pensione. Siamo tornati, ma non dico 10, 20 anni indietro. E quindi parlare oggi del lavoro che cambia sembra quasi che uno debba ripercorrere un po' tutto il percorso che lo ha portato ad arrivare a certe conclusioni oggi, che a chi scrive sembrano quasi ovvie. Ma evidentemente chi ascolta, o che molti lo ascoltano, sembrano assolutamente ovvio. Il mio testo non parla di precariato, parla anche di precariato. Il mio testo vorrebbe, introdurre qualche elemento di più. Sostanzialmente dire che c'è stata una radicale trasformazione nei modi di lavorare, questo però lo dicono tutti, però vorrebbe dirlo, e però probabilmente non sono stato capace di dirlo, da un particolare punto di vista di quello cioè che è stata la mia esperienza di lavoro negli ultimi 22 anni. Io ho fatto per 18 anni il docente universitario, poi sono stato cacciato all'università, mi sono inventato una nuova vita all'età di 45 anni e mi sono messo a fare un altro mestiere. Devo dire, mi sono divertito un sacco facendo questo mestiere, però facendo questo mestiere, il mestiere del consulente d'organizzazione, in particolare il settore dell'economia post-fondista, mi sembra di aver imparato alcune cose. Cioè, mi sembra di aver imparato come funziona oggi questo benedetto post-fondismo, questo capitalismo globalizzato. E a partire quindi da questa esperienza diretta ho incominciato a riflettere uno sulla mia esperienza professionale, quelli che diciamo che la fanno come me, e che sono quelli che in America si chiamano i freelance, cioè tu sei un lavoratore autonomo che presti dei servizi professionali. Lo puoi fare nella grafica, lo puoi fare nell'editoria, lo puoi fare nell'entertainment, lo puoi fare nell'informatica, in mille settori in cui uno può svolgere questa attività indipendente. Lo fai praticamente utilizzando l'unica cosa disponibile che hai da mettere sul mercato, cioè le tue competenze, il tuo capitale umano, e ti trovi evidentemente dentro una serie di opportunità, di contraddizioni che sono completamente diverse, radicalmente diverse dalle opportunità e dalle contraddizioni nelle quali è vissuto ed è cresciuto il lavoro dipendente, sia il lavoro operario che il lavoro impiegatizio. Dopodiché, lavorando soprattutto a contatto con le aziende, chiaramente ho visto che cresce questo lavoro flessibile, chiamiamolo flessibile per adesso, cioè crescere accanto alla forza lavoro fissa, stabile, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le varie forme di lavoro flessibile, no? Che possono essere considerate anch'esse appunto lavoro dipendente, come il contratto a tempo determinato, part time, eccetera, oppure sono questa vasta fascia del cosiddetto lavoro parasubordinato. E quindi diciamo si è allargata la platea di queste nuove forme di lavoro. E quindi la parola precariato è una parola troppo generica per definirla, no? In un certo senso. Perché molto spesso a questa parola precariato si associa, come dire, un'idea sempre di costrizione, poco poco si associa all'idea di scelta. Invece, come dire, nella mia storia, nella storia, come dire, di chi ha seguito i movimenti dall'inizio degli anni 60 e poi, c'è stato un periodo in cui, come dire, là c'è stata una scelta quasi generazionale, di una generazione che diceva, di lavorare tutta la vita nello stesso fatto, nello stesso posto, nello stesso ufficio, non me la sento, preferisco, come dire, trovarmi, essere più libero, trovare queste forme saltuarie di lavoro, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente questa cosa del precariato è nata da una doppia spinta, è nata da un'esigenza capitalistica di flessibilizzare il lavoro, di abbattere il costo del lavoro, ed è nata però anche, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, da alcune scelte soggettive, e come tale rimane una scelta soggettiva. E per questo allora noi diciamo che quando i nostri governanti dice cerchiamo di fare in modo che tutti i precari abbiano un contratto a tempo indeterminato, è una stupidaggine, perché evidentemente non è vero che tutti vogliono lavorare a tempo indeterminato. Primo, secondo, è quello che io cerco di dire in questo libro, voi dimenticate, cari signori, che il lavoro dipendente sotto il contratto non ha più l'attrattiva di prima. Cioè, questo punto è chiaro, non è più attrattivo come prima, anche, forse soprattutto, che sui livelli di reddito. E poi non è affatto detto che è veramente stabile. Le aziende continuano continuamente, cioè, a cambiare proprietà, a cambiare assetto, organizzazione, eccetera. Quindi uno che sta dentro un'azienda con un bel contratto di lavoro a tempo indeterminato si può trovare spesso di fronte a crisi, ristrutturazioni, e venire appunto messo sul lastrico a 45-50 anni, a questo punto qua, state un po' sicuri che il lavoro non lo trova più. Quindi, come dire, il discorso sul lavoro autonomo, lavoro intermittente, fatto come scelta, probabilmente, almeno questa è la mia ipotesi, dipende anche dal fatto che il lavoro a tempo indeterminato, il lavoro dipendente, non ha più l'attrattiva che aveva prima. 10 giorni fa al convegno dell'Associazione Italiana degli Economisti arriva il nostro governatore della Banca d'Italia, Draghi, e dice, signori, i salari italiani sono i più bassi d'Europa, in particolare i salari d'ingresso, cioè i salari che vengono percepiti dai dipendenti nei primi anni di lavoro, magari poi successivamente nelle fasi di carriera successive si uniformano, ma non abbiamo questa situazione. Montezemolo si gira dall'altra parte, Epifani pure, non c'entrano, loro proprio non c'entrano. E uno, come dire, soprattutto che nella mia storia, pensa, ma diamine, l'Italia era il paese con il più forte movimento sindacale del mondo occidentale, era il paese con la più forte dinamica salariale del mondo occidentale, era il paese della democrazia in fabbrica, era il paese della conflittualità, ma siamo ridotti a essere gli ultimi. Cioè, ci hanno bastonati a questo punto. Cioè, questa è, come dire, la misura della sconfitta spaventosa che non solo la classe operaia italiana, ma tutti hanno subito. E soprattutto i giovani, sono proprio la generazione più fregata in assoluto. Più fregata perché, e questo è un altro elemento che io ho introdotto, ma non ho sviluppato nel mio libro, ma sul quale io credo che bisognerebbe riflettere a lungo. Cioè, è possibile che noi non ci rendiamo conto che questo paese ha vissuto un golpe bianco? possibile che non ce ne rendiamo conto? Cioè, quando è nel 92-93 che passa come il periodo delle privatizzazioni? Non è stato un periodo delle privatizzazioni, si è cambiata la costituzione materiale del paese, è durata 60 anni. C'è cambiata la classe dirigente, è cambiata il capitale, non c'erano più gli agnelli, c'erano questi avventurieri della finanza che ci ritroviamo, Tronchetti Provera, Gaglio, questa gente qua, che sono diventati padroni di imperi immensi senza mettere una lira del suo. Abbiamo avuto l'accordo del 93, che di fatto ha soppresso il primo articolo della Costituzione. Da quel momento il lavoro è diventato un costo, non è diventato più una risorsa. E voi studiate, fate i master che volete, andate sul mercato del lavoro, non valete niente perché siete solo un costo. No, queste cose qua che cosa sono? Una trasformazione del genere, non dico che è analoga alle trasformazioni che è avvenuto nei paesi socialisti, ma ci andiamo vicini. Ora, invece di parlare di questo, ci hanno raccontato la favola del Cappuccetto Rosso, che la Costituzione italiana era in pericolo perché c'era un signor Berlusconi. Raccontatela a vostra zia questa favola qua. Quindi sostanzialmente, cioè, c'è un quadro mentale, secondo me, che va cambiato radicalmente, soprattutto all'interno della sinistra. Cioè, questo è un discorso che riguarda la sinistra, e è tutto all'interno della cosiddetta sinistra, ogni tanto cosiddetta sinistra. Ecco, da qui parte, se vogliamo, una serie di considerazioni, la prima delle quali è una banalità assoluta, perché la letteratura americana è piena di questa, cioè che questi signori, dopo aver fatto a pezzi la classe operaria, credo che su questo non ci sono dubbi, stanno facendo a pezzi il ceto medio. Molti dicono: oh, che bello, tanto il ceto medio sono fascisti, sono reazionari, sono cristiani, ma non calma, innanzitutto il ceto medio sono anch'io, quindi comincia un po' a pensare ai fatti tuoi. Nel senso che se tu, come dire, gravemente intacchi le mie condizioni di vita e il mio potere sociale, non sono per niente contento. E questo è un problema, evidentemente, secondo me, che diventerà sempre più drammatico, che forse noi in Europa, grazie a dei sistemi di welfare, bene o male, una società più equilibrata di quella americana, non avvertiamo la drammaticità come lo avvertono gli Stati Uniti, però devo dire, quando leggo i libri di Reich, l'ex ministro del lavoro di Clinton, che nel dicembre 2006 ha pubblicato uno dei suoi ultimi libri, in cui dice: guardate che dal 1929, che la middle class americana sta così male, qualcosa succede. E poi soprattutto può succedere anche qualcosa di positivo, come vedremo dopo, nel senso che questo dà adito a forme di coalizione di autotutela che partono non a caso, guardate, da quei freelance di cui si parlava prima, si parlava all'inizio. Soltanto che io mi sono accorto mentre andavo a presentare questo libro che avevo ancora alcuni blocchi, alcune grosse difficoltà nel comunicare. Ed era per questo che stamattina avevo preparato questa presentazione, ma a questo punto non so nemmeno se la farò, perché se non finisco per rompervi le scatole tutto il mattino. Che possiamo dire in questo modo. Tra la gente mi dice: ma scusami tanto, tu vieni, diciamo, dalla tradizione operaista, hai sempre parlato di fabbrica, di classe operaria, cioè hai rotto le scatole per 20 anni con la classe operaria. Adesso improvvisamente dimentichi che la classe operaia parli solo di ceti medi, lavoratori autonomi. Io vorrei, come dire, cercare di farmi capire che non c'è una grande contraddizione in queste cose, perché questa cosa nasce proprio dall'evoluzione, se vogliamo, del lavoro. E dall'evoluzione del lavoro che non riguarda soltanto, come dire, in questo senso probabilmente dobbiamo anche modificare la nostra impostazione, che non nasce soltanto da una, come dire, analisi di un capitalismo che da un lato si frammenta sempre più in impresa rete, l'impresa, diciamo, la grossa impresa verticalmente organizzata, pian piano si è andata, come dire, dissolvendo, restringendo il suo core business e quindi allargando sostanzialmente l'ambito dei fornitori, eccetera, quindi creando attorno una nuvola sostanzialmente di piccole imprese. Ma l'altro elemento fondamentale, si dice che il capitalismo è passato da produzione di merci immateriali alla produzione e alla vendita di merci immateriali, no? Questo però, come dire, non è una spiegazione ancora sufficiente, perché quello a cui noi assistiamo in realtà è un fortissimo intreccio tra fordismo e postfordismo. Ci sono però alcuni elementi, anelli di questa catena che spesso ci mancano, che sono quelli però che tengono insieme il tutto, no? E penso che, diciamo, il settore nel quale da 22 anni io lavoro rappresenti proprio questo sistema di anelli, no? Bisognerebbe, adesso me ne farò vedere 4-5 slide, non di più, però bisognerebbe abbassare la luce, se no qua non si vede niente. Si vede? Allora, vabbè, primo riprovero, ma insomma il fordismo si riproduce in Cina al massimo, scusa, cosa viene a parlare di post-fordismo di piccola fabbrica, quando in Cina si vedono scene come questa è una fabbrica per la produzione dei polli. E questo comporta anche certi modi di dire, questo qua c'è sostanzialmente un furgone posteggiato in doppia fila, l'analogo di un furgone, una bicicletta con le consegne, no? Questo, per esempio, vedete queste scene qua. Cioè, abbiamo ancora un capitalismo che su certi elementi della catena distributiva deve ancora organizzarsi, no? Però ecco, prendiamo un'automobile, no? L'automobile, insomma, si compone da un bel po' di pezzi, mi sembra, no? Ora pensate che più o meno oggi come oggi dal 65% al 70% di questi pezzi qua vengono prodotti non dall'azienda che poi mette la marca della Formula, non viene prodotta dalla Mercedes-Benz, non viene prodotta dalla Fiat, non viene prodotta dalla Ford e così via, vengono prodotte da un sistema di fornitori molto complessi. Capite bene che in una situazione del genere, dal 65 al 70% del prodotto finito non viene fabbricato dall'azienda che dà il prodotto finale, ma viene fabbricato fuori, l'essenza di questo sistema di produzione è il sistema che tiene insieme questa rete di relazioni. Non sono le singole fabbriche, ma è il collante che tiene queste cose. Questo collante si chiama logistica. Torniamo indietro, la vecchia, come dire, banale analisi del postfordismo. La fabbrica che ha appunto vari fornitori, quella è la fabbrica committente, ci dà un pezzo qua, un pezzo qua, un pezzo là, e così via. Ciascuna di queste piccole o medie fabbrichette, ma possono essere anche molto più grandi di quella del committente, produce un pezzo. C'è una fabbrichetta che produce scarponi, no? Scarpe sportive, ma come dire, la fibra gliela fornisce la BASF, che è una multinazionale, comunque è un fornitore. Dopodiché questa fabbrica può servirsi di laboratori artigiani, no? Che sono quelli che hanno sostituito in certo senso la vecchia classe operaria. Nel modello veneto il laboratorio artigiano è quello che, come dire, fa gran parte del lavoro che una volta si faceva nelle catene, eccetera. Ed è quello, tra l'altro, se voi guardate le statistiche del lavoro, più colpito dalle delocalizzazioni. Mentre, diciamo, gli occupati in generale nel Veneto sono dei limiti, diciamo, del 7%, qui sono limiti del 35-40%, perché appunto all'estero si fanno male. Dopodiché uno si serve anche del professionista esterno, no? E infine si può servire di professionisti esterni, e sono questi che io chiamo lavoratori autonomi di seconda generazione, cioè, non so se sono riuscito a farmi capire. Sono sostanzialmente dei lavoratori che lavorano in seguito a dei processi di outsourcing, va bene? Quindi in certo senso possono essere considerate la stregua, diciamo, delle catene di fornitura. Quello che non è assolutamente, scusate se ogni tanto c'è della roba in inglese, ma siccome queste sono slide, come voi sapete, sono la precedente figura, qual è il soggetto, no? Quella precedente, il lavoratore non, scusi. Tornavo indietro, no? Cioè, dicevo, tu c'hai il committente, c'hai le fabbriche che producono le componenti, ma c'è anche i laboratori artigiani, c'è dei singoli professionisti o delle associazioni di professionisti. Questi io chiamo una prima tipologia di lavoratori autonomi seconda generazione. Ora, Questo quadro è completo, non è per niente completo, questo è il punto. Per questo quadro non è per niente completo, ma che gli manca la parte più importante. Ed è qui che non riusciamo tante volte a capirci. Cioè i lavori, i discorsi che si fanno sul post-fordismo si fermano qua. Ho capito che il post-fordismo è un sistema di impresa a rete. Però nessuno si pone il problema di qual è la rete. Infatti, questo è il punto chiave. Scusate se appunto ogni tanto c'è della roba in inglese, ma perché uso slide che poi uso anche. Cosa significa? Che queste freccette che collegano un pezzo della, diciamo, del sistema all'altro non sono freccette simboliche, sono uomini che ci lavorano, sono tecnologie, sono sistemi, cioè è un vero e proprio mega settore dell'economia contemporanea e sta diventando il settore più importante. Perché? Perché quando voi prendete un prodotto maturo, un'automobile, no? Lasciamo stare i prodotti di nuova innovazione, non l'automobile. Le automobili oggi tecnicamente, qualitativamente, anche come prezzo, si assomigliano a tutti. Chi è che vince sul mercato? Vince chi ha la migliore rete distributiva e la migliore, il più efficiente sistema di gestione della rete. Quindi, come dire, quello su cui io richiamo l'attenzione sono quegli aumenti in blu. È lì, come dire, che è nata, come dire, una nuova economia che tiene insieme il fordismo e il post-fordismo. Perché lì appunto si stanno facendo di lavoro, di trasporto, di gestione di magazzino e così via, eccetera, eccetera. Sapete quanti sono in Italia? In Italia sono quasi 800.000 persone che si occupano di questa roba. In paesi che si sono specializzati su questo, come la Germania, sono 2 milioni e mezzo di persone, è il secondo settore nella manifatturiera dopo l'auto, tanto per dire. Allora, se uno non se ne accorge di questo, o come dire, non conosce questi aspetti qua, di fordismo, di post-fordismo, di globalizzazione, non capirà mai niente. Queste sono tutte queste attività che si fanno in questo tipo di settore, no? La distribuzione distributiva, che è quella che voi conoscete meglio, ma poi la gestione di magazzino e così via, eccetera. Tutta una serie di attività che, come vedremo, sono le attività che consumano moltissimo information technology. Andiamo avanti veloci. Tant'è che li chiamano così the physical internet. Viene chiamato the physical internet. Allora, questo è un altro punto importante. Noi quando pensiamo alla globalizzazione, in genere la pensiamo sempre in termini, come dire, virtuali. Per noi la globalizzazione è internet, cioè scambio di, come dire, messaggi materiali, ed è finanza, giusto? Con la finanza e con la telematica noi abbiamo definito la globalizzazione. Dimentichiamo che la globalizzazione c'è un hardware pesantissimo che è costituito appunto da quel settore che vi dicevo io, che viene chiamato physical internet. Esempio piccolo, questa qua è la McLaren, è la Mercedes McLaren, che questo è un tratto, una foto del 2004, quindi si è cambiato così. Questo è il modello che la McLaren fa in concorrenza con la Ferrari, no? Anche se a voi non sembra, questa qui è una catena di assembly hall, una catena di montaggio, sembra in realtà un showroom, no? Cioè perfetto, pulito e così via. Ma per ottenere questa pulizia, cioè per ottenere questa essenzialità, dietro c'è questo mostruoso sistema. Cioè c'è un sistema che è gestito e comandato dalla centrale della Mercedes-Benz, che sta in questo posto che si chiama Sindelfingen, la quale dà gli ordini di produzione a queste 6 fabbriche che voi vedete, come dire, con queste piattaforme blu, che sono 6 fabbriche della Mercedes localizzate in 6 punti diversi della Germania, e ciascuna delle quali fa dei componenti specifici per quel modello della Mercedes, della McLaren. Questi componenti vengono tutti trasferiti in un magazzino centrale, che è proprio quel giallo, va bene? E che è il vero cuore di tutto il sistema, che però non appartiene né alla McLaren né alla Mercedes. C'è un terzo signore che è specializzato in questa cosa, che gestisce quel magazzino. Ora forse voi non vedete cosa c'è scritto in queste palline qua. Nella prima pallina c'è scritto half a day. Cioè vuol dire che dal momento in cui viene messo l'ordine, al momento in cui il componente deve essere consegnato al magazzino, deve passare mezza giornata. Questo qui c'è scritto half a day. Vuol dire che nel momento in cui il magazzino riceve il componente, e nel momento in cui cambia la funzione del magazzino, anche quello di creare il kit, No, perché i componenti poi vengono assemblati in alcuni kit che praticamente la fase di preassemblaggio e come tali vengono trasferiti all'assemblaggio. Ci mette mezza giornata e poi un giorno deve essere consegnato alla... Tra l'altro c'è la manica di mezzo, quindi le cose non vanno in aereo. Sostanzialmente tutto questo ciclo ha un ritmo di 2 giorni. Allora, voi capite che per organizzare una cosa del genere, cioè per organizzare questo sistema di rapporti, occorrono, come dire, capitali, conoscenze, tecnologie e così via. Questo è, come dire, lo schema invece della fabbrica di produzione di veicoli industriali mani. Però quello che voi vedete a sinistra è lo schema di produzione della fabbrica. Quello che voi vedete a destra è lo schema di costruzione della rete. In genere noi quando parliamo di manifattura di produzione, parliamo solo di questo. Cioè noi ci dimentichiamo che oggi la produzione è fatta così, cioè che il 50% è fatto da quello che chiamiamo veramente produzione, che il 50% è fatto di quella cosa che deve tenere insieme la rete, che deve tenere cioè il sistema, questo meccanismo della fornitura, della distribuzione, eccetera, eccetera. Quindi noi non possiamo continuare a parlare, per questo non ci si capisce certe volte. Cioè c'è una cultura industriale arretrata nel nostro paese. C'è una cultura industriale arretrata. Questa è la modellizzazione, diciamo, del sistema, perché a un certo punto quando dovete costruire un software che governa l'intero sistema, avete bisogno di modellizzarlo, avete una modellizzazione un po' complicata che dà luogo poi evidentemente a una serie di operazioni. Ora, voi potete immaginare la forza lavoro intellettuale che è concentrata in questo tipo di operazioni, ma che sono due informatici, specialisti di ricerca operativa. Cioè, quando noi diciamo i lavoratori della conoscenza, ci rimettiamo soltanto unicamente a questa parte manifatturiera delle più tradizionali settori, che è il settore dell'automotive. Abbiamo un impegno proprio nella parte, quella che dicevo di destra prima, impressionante di forza lavoro intellettuale. Guardiamo un caso concreto, questa è una fabbrica di sempre di veicoli industriali in Polonia, sono tutte slide che sono state presentate un mese fa alla convegno di logistica di Berlino. Fabbrichetta mica grossa, 1700 persone, qualcosa del genere. Questo è il sistema di fornitura di una parte dei componenti, cioè sostanzialmente da questi posti lontanissimi, in Germania, eccetera, Austria, così via, eccetera, lì arrivano ogni giorno questi componenti. Uno potrebbe dire la follia, tra l'altro perché per quale ragione le nostre strade sono intasate di camion, furgoni, eccetera. Perché questi invece di produrre tutta questa roba all'interno di un'omnipolonice, come cacchio si chiama, la producono a 1200 km di distanza. E coordinare queste cose, probabilmente voi non capite cosa c'è scritto lì, lì c'è scritto una cosa che fa rivedere, che questi sono i componenti just in time, cioè quelli per cui dall'ordine alla consegna deve passare un giorno. Questo qui è anche questo un paesaggio industriale poco conosciuto, questo è un centro logistico. In genere tutti voi nella vostra immaginaria avete visto un'industria, non avete visto una fotografia di una catena di montaggio, avete visto una fotografia di una fabbrica chimica, avete visto una fotografia di una miniera. Beh, fotografie di un centro logistico non se ne vedono molti perché non è, in genere fa parte appunto della nostra cultura industriale. Questo affare blu che voi vedete è una delle più grandi macchine utensili al mondo che si trova nei grandi centri logistici, che si chiama Sorter e che ha semplicemente la funzione di, rispetto a un programma di produzione e distribuzione particolare, di prendere i pezzi e distribuirli secondo le varie destinazioni. Andiamo avanti. Ora, di queste cosette qua, di questi magazzini piccoli e grandi, in Italia ce ne sono tantissimi, in alcune zone italiane ce ne sono tantissimi. Questi qui sono i magazzini, quelli più grandi saranno roba piccola, 3.000 metri quadri di superficie coperta, insomma. Prima del 95, dopo due anni erano questi, e adesso siamo in una situazione del genere. Beh, c'è qualcuno che si accorge di questo? C'è un sindacato presente in tutta sta roba? Esiste un contratto di lavoro della logistica? Cioè, no. Cioè, ma vi rendete conto in che paese viviamo? Andiamo avanti. Vi dicevo, questo è un settore ad altissimo consumo di information technology. Ci parliamo dei nostri amici, con un amico mio di Christian, dei nostri amici svizzeri, quali sono dei grandi specialisti dell'intelligenza artificiale, perché si sono serviti di questi sistemi, la cosiddetta swarm theory. La swarm theory si basa sul comportamento delle formiche. Le formiche, quando trovano, come dire, un cibo, fanno questo percorso dalla tana al cibo in vari modi. Quando una trova il percorso ottimale, rilascia una sostanza che si chiama feromone. Sulla base di quello che sono visto a spiegare, cioè, sulla base di queste cose, i matematici hanno costruito un algoritmo, e sulla base di questo algoritmo hanno costruito un software, e questo software viene applicato per l'ottimizzazione dei percorsi. Ce n'è applicato uno qui alla Barilla. La colonia delle formiche è la flotta di camion, il cibo sono le merci e così via, eccetera. Questo per dirvi sostanzialmente quanta informata e intelligenza artificiale applicano questi settori, che è appunto il settore che impiega più informatica di tutti dopo il settore militare. Andiamo avanti. L'ultimo ritrovato, questo aggeggio, questi puntini che voi vedete, si chiama Radio Frequency Identification Device, e sono sostanzialmente delle micro ricetrasmittenti. Ora, queste cose qui si stanno applicando oggi nella grande distribuzione, Walmart, Metro, eccetera, stanno facendo esperimenti, e uno dei problemi non è tanto quello del costo, ma uno dei problemi è la privacy, cioè la massaia che va a fare la spesa passa la cassa con carrello dentro la quale ci sono 75 articoli e 25 ricetrasmittenti, per cui si sta studiando il modo di disattivarle alla cassa e così via, eccetera. Perché vengono adottate? Soprattutto per evitare le falsificazioni. Quando Benetton fa costruire le sue robe in Cina, per essere sicuro che quello che gli arriva è veramente roba fatta dai fornitori Benetton, non da un altro, ci mette dentro uno di questi affari che rilevano, che hanno una particolarità, una geniale particolarità. Cos'è la genialità? Che sono ricetrasmittenti che non hanno bisogno di batterie, quando si caricano con l'impulso che ricevono. E questo, per esempio, sui farmaci, probabilmente l'Unione Europea probabilmente darà delle disposizioni perché questi aggeggi vengono messi sulla produzione di farmaci. Per dirvi, i produttori di Serra Iberica, il famoso maiale da cui tirano fuori la Monserrano, che costa un sacco di soldi, hanno delle cose di questo genere nella zampa. La zampa del maiale ci porta dietro una... Allora, finisco tra poco. Questa, diciamo, è la parte legata ai sistemi manifatturieri distributivi. Pensate un po' all'enorme componente di questo settore che è legata ai trasporti. Questo è il progetto della nuova ferrovia russa che dovrebbe collegare Mosca, San Pietroburgo, Rostov con Vladivostok. Perché? Perché sostanzialmente i russi si sono accorti che tutto il commercio Far East Europa passa per la via marittima, che a questo punto ce l'hanno in mano i cinesi, e per trovare un'alternativa ai cinesi offriranno un'alternativa ferroviaria, con dei costi spaventosi, però diciamo alla fine, nel senso che la ferrovia può arrivare in 15 giorni quando la nave ce ne mette 22, e quindi ci sono proprio delle, diciamo, voi potete immaginare cosa significa costruire appunto linee ferroviarie e tutto quello che significa e che comporta, dire, i sistemi di controllo per un percorso che sono, non so, 10.000 km, eccetera. Per quale ragione? Perché la Russia appunto deve capire il suo sistema logistico. Cosa vuol dire? I russi dicono: noi abbiamo tre porte d'ingresso al nostro sistema. Una è quella che voi vedete segnata, che San Pietroburgo si chiama West Gate. Perché? Perché sono tutte le merci che arrivano via mare dal Baltico. Un'altra si chiama la South Gate di Rostov, sono tutte le merci che arrivano via mare dal Mediterraneo al Mar Nero. E poi la terza, evidentemente, è quella, diciamo, del Pacifico, sulla di Vostok. su questi tre punti strategici, come dire, loro devono costruire, che sono i punti di ingresso e di uscita della merce, degli scambi, quindi commerciali internazionali, oltre a quelli aerei, eccetera, loro devono costruire un sistema ragionato di magazzini, di strade, di punti di controllo, eccetera, eccetera, con investimenti spaventosi. Probabilmente i tedeschi sono già lì pronti a vendere i loro treni e così via. Questo è il porto di Rotterdam, come vi ho detto, una cosa grossina, no? Soltanto sono cose che divorano territori in maniera impressionante. Se voi guardate quella fase lì che vi ho fatto vedere, è semplicemente quel piccolo rettangolino, perché loro hanno bisogno di questo enorme spazio successivo e via di questo passo. Questo, vabbè, è troppo complicato per spiegarlo, questo è il nuovo porto di Shanghai, la Maquette, un porto che ha bisogno di un ponte di 35 km per essere legato. Cioè, tutto questo lo dico perché rendervi conto sostanzialmente che razza di investimenti di capitale fisso vengono fatti nel mondo per questa, per gestire il postordismo, per gestire la globalizzazione. Cioè, è impressionante. Se voi guardate, diciamo, gli investimenti fatti in questo settore, sono i più alti investimenti di capitale fisso che mai viene fatto. E questi settori non sono edilizia, sono settori ad alta tecnologia. Vabbè, questa è la più grande nave container del mondo, cioè, non le scatole. E poi, vabbè, potremmo anche parlare un po' di quali sono i paesi guida in questa cosa. Uno dei paesi guida è questo piccolissimo emirato che si chiama Dubai, che non avendo petrolio si è specializzato in queste cose. Praticamente il suo territorio viene completamente occupato da queste infrastrutture, piccolo territorio, ma l'80% viene occupato soltanto da aeroporti, da centri di addestramento, eccetera. Praticamente un'economia del 90% vive sulla logistica. L'altro paese leader in questa cosa è la Germania. Cioè, la Germania, che noi tutti consideriamo un paese bloccato, un paese con questo sistema di welfare che non va avanti, poi i tedeschi che sono un po' gnocchi, che sono stupidi. Cioè, questi qua hanno capito dove vanno le cose, sono diventati leader mondiali di questo settore, sono i leader mondiali, stanno acquistando società americane, eccetera. Quindi il porto di Hamburgo è oggi il primo porto per dinamica del mondo, perché è semplicemente quello che serve la cosiddetta Westgate della Russia, no? Siccome la Russia oggi pompa più prodotti e più ricchezza della Cina, chi controlla questa via controlla tutto. Loro sono i leader mondiali tramite la Deutsche Post, che ha acquisito la DHL, che è numero uno dappertutto nel mondo e numero tre negli Stati Uniti, e che ha 525.000 dipendenti, è il sesto datore di lavoro del mondo. E questo vi dà un'idea dell'impatto che questi settori hanno sull'occupazione. Allora, capite, parlare di capitalismo oggi e ignorare queste robe vuol dire, ma in che mondo siamo? Tant'è che all'ultimo congresso di logistica è arrivata anche la cancelliera, che non è venuta lì a salutare, è venuto un discorso politico di 25 minuti. Questo è il nostro invece miglior porto italiano, porto di Gioia Tauro, solo che c'è un piccolo difetto, che i padroni sono di Amburgo, quindi è sostanzialmente una filiale. Bene, siamo arrivati alla fine. Quindi ricominciamo da capo. I lavoratori autonomi di seconda generazione, e parliamo solo del settore manifatturiero, sono quelli che nascono dai processi di esternalizzazione di certe funzioni. Ecco, io spero quindi a questo punto di aver chiarito meglio, come dire, come si è arrivati a questa definizione, no? E come da qui si è derivati a parlare di, come dire, lavoro intellettuale. L'incidenza del lavoro intellettuale nei sistemi manifatturieri è ancora molto elevata, evidentemente molto elevata là dove l'information technology ha una forte importanza, e il settore civile nel quale questa information technology è utilizzata di più è questo settore di logistica di cui vi ho parlato prima. Naturalmente a questo punto si apre tutto l'enorme discorso dei settori che non sono manifatturieri, ma che sono i settori del servizio, i settori dell'entertainment, i settori e così via, eccetera. Un discorso che potremmo continuare a fare, però mi veramente interessava fermarmi qui, perché per dire, insomma, che tra il ragionamento che abbiamo fatto un tempo sulla classe operaia, sul lavoro dipendente, eccetera, e il ragionamento che facciamo adesso, esiste una continuità che, come dire, che ha seguito pian piano l'evoluzione del mondo capitalistico.